Ecco, quello che state sentendo è il verso dell'ornitorinco, questo animale un po' misterioso che vive solo in Australia e non tutti sanno che è un mammifero ed è l'unico mammifero, insieme all'echidna, che depone le uova. Ma partiamo dalla soluzione del nostro quiz per approfondire un tema molto affascinante legato al regno animale, e cioè gli animali hanno una mente e se sì, quanto è simile a quella umana? A queste domande risponderà Laura Beani, zoologa dell'Università di Firenze, che proprio in questi giorni a Bergamo Scienza ha tenuto una conferenza su questo argomento. La professoressa è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera. Ecco, ci sveli subito l'arcano, ma l'ornitorinco sogna? E come se sogna? Anzi, sogna per un numero di ore abbastanza impressionanti. Su 14 ore di sonno giornaliero ne spende 8 a sognare tra virgolette. Diciamo che si possono rilevare onde dal tronco encefalico simili a quelle della veglia, onde particolari che si accompagnano con rapidi movimenti oculari. Questi sono i due elementi base del cosiddetto sonno REM. Ecco, abbiamo detto allora in maniera corretta nella nostra risposta che si può dire che è il mammifero con la fase REM più lunga. Ma dottoressa, ci sono altri animali che sognano? Gli animali che sognano sono moltissimi, sicuramente sognano gli endotermi, gli animali a sangue caldo, i mammiferi, ma sognano con un emisfero per volta anche gli uccelli, perché possono essere possibili prede e allora può far comodo essere mezzo sognanti e mezzo vigili. E la cosa abbastanza anomala nella distribuzione del sogno REM è che animali che noi riteniamo tra virgolette molto intelligenti come il delfino sognano molto meno di questo mammifero australiano che ha molto del rettile, l'ornitorinco dal becco ad anatra che fa le uova e che appunto conserva molti caratteri che lo fanno apparire antico, quasi un fossile vivente. Ecco, io so che lei ha in serbo per noi un esempio davvero divertente di un colorato uccello australiano. Che cosa fa il diamante mandarino? E il diamante mandarino quando dorme e sogna la strofa che ha ostinatamente cantato e ripetuto durante il giorno. Anche questo tipo di studio si fa con lo stesso approccio che abbiamo usato con l'ornitorinco, con elettroencefalogrammi, con sistemi non troppo invasivi di microscopici rilevatori dell'attività di singoli neuroni. Quello che è stupefacente nei recenti dati di Dave e Margoliash è che esattamente gli stessi neuroni che sono attivati nel giorno quando si cantano le note di una strofa, gli stessi neuroni si attivano in certe fasi di notte. In qualche maniera così sembra succedere nel cervello di questi uccellini che di notte si ripassano il canto. Ripassano la lezione. Dunque ora non abbiamo più dubbi sul fatto che gli animali sognino, ma che abbiano una mente, qualche perplessità ancora l'abbiamo. Ci aiuti lei, professoressa, a far luce su questo tema, magari con qualche esempio divertente. Ci sono animali che sanno contare. Quale dimostrazione migliore di intelligenza? Certo, ci sono animali che sanno associare un numero ad una serie di oggetti infatti su un vassoio, lo fa il pappagallo cinerino Alex, sempre per restare nel mondo degli uccelli. Certo, un pappagallo che ha avuto un lungo training di addestramento da Irene Pettenberg, si forma una coppia, un sodalizio, e quando Irene dice un numero, il pappagallo indica il vassoio che ha quel dato numero di noccioline, ad esempio. E questo tipo di associazione lo fanno moltissimi uccelli, ma lo fanno anche i gatti, lo fanno anche le scimmie. C'è da chiedersi perché. Può essere molto utile contare le uova in un nido o contare i piccoli in una cucciolata. Infatti le capacità numeriche di questi nostri animali matematici sono abbastanza rudimentali, si arriva alla decina, si possono fare anche delle piccole somme, delle operazioni molto semplici, come un senso numerico è stato scoperto in bambini piccolissimi sotto l'anno di età. Ma è vero che esistono degli animali bugiardi? Cioè, voglio dire, mentono sapendo di mentire, proprio come gli esseri umani. Come gli uomini, come i bambini, ma anche come gli adulti. Ci sono proprio delle prove di numerazione sbagliata che danno certi scimpanzé, quando la regola del gioco è: se indovini quante caramelle ci sono nel vassoio, dai il vassoio al tuo compagno, e in quel caso possono sbagliare per non dargli il vassoio delle caramelle. Ma è interessante il contesto naturale oltre che quello di laboratorio, cioè i problemi con i quali gli animali hanno effettivamente a che fare. E quindi pensare che i cosiddetti cervelli da gallina, io studio le starne, un galliforme dal cervello piccolo, siano in grado di emettere dei richiami diversi se vedono un falco o se vedono una volpe, è già un microlinguaggio. Certo, non sono parole, ma sono dei segnali, e siano in grado di decidere a seconda dell'audience quali richiami emettere. Mi spiego: un gallo, se vede un'ombra di un falco, ma è in compagnia di una quaglia, può benissimo non emettere richiami di allarme, ne emette se c'è un altro gallo maschio, ne emette molti di più se c'è una femmina, se c'è una gallina, e così pure è molto più generoso nell'emissione dei richiami intorno al cibo, se deve richiamare, se vede dall'altra parte di un vetro una gallina, meglio ancora se è una gallina estranea al suo gruppo, al suo harem, con cui potrebbe stringere nuove relazioni. Quindi altro che cervelli da gallina. Ecco, è proprio il caso di dire che insomma questi appellativi non sono poi così veri. Concludiamo dicendo che anche il gioco ha un ruolo ben preciso. In alcuni animali è proprio indice di spiccata intelligenza, mi par di capire. Vorrei dirle che ci sono degli studi anche recenti sul fatto che anche il nostro ornitorinco, da cui siamo partiti per questa chiacchierata, gioca. Sono giochi imitativi, giochi che preparano ai compiti più seri della vita, ma sono anche giochi creativi che fanno inventare delle soluzioni per risolvere dei problemi. Un esempio: giovani scimpanzé che imparano a pescare da un termitaio usando un fuscello di erba inumidito come una canna da pesca. Sono giochi molto seri, giochi che preparano alla vita. Ecco, qui la devo lasciare, le auguro un buon lavoro e arrivederci alla prossima. Benissimo, arrivederci.